lontan da me eri fuggita, e questo tanto cuor per il dolore soffri per te, lo so ritornerai, mi cercherai, ma la mia vita distrutta ormai sarà, né più potrai credere ancora. Ti dissi un dì, tu sei per me la vita mia, vivevo solo per te, eri per me la gioventù. O vicina sei lontana, forse sarà la canzone che compone questo cuore che non crede più. Ma vedrai, domani tu vorrai cercarmi ancora. Non potrai trovare questo cuore. Oggi dicesti di no, domani lungi sarò, più non cercare di me, tu sai perché. Se vorrai domani ancor cercare con me l'amore, non potrai più parlare al mio cuore. Domani non dir più, tu fai la gioventù, nel tuo cuore più amor non c'è che me. Oh,